Ne avevo due, io la giocchezza non le tocca a nessuno, mancare che si ammazziano, non le do a nessuno. Però ho finito. Capo. E quello là, così dice, qualche cosa, l'accendo, cazzo, mamma mia, chi su, è una bestia e l'altro. Ma questo già fa bene. Capo. Ehi, vabbè là, me ne passo in quel rettiglio. Che devo fare una cosa qua, già rientro più tardi a lì. Attento Antonio. Gappa gappa, andare a Natale, dai. Ce la risentiamo. Attento Antonio, bom. Ciao ciao. Gappa avanti, chi è? California, buongiorno Antonio, mi ascolti? Gappa che ti ascolto. Bene, arrivo lì. Mattiamo 9, radio Super 5, 9 a 9 e 10, io lì da te. Pure tu all'incirca è così, dai. Ah, per il positivo, Antua, dai, quindi sto arrivando benissimo, va bene. Ah, c'è una portantina, c'è qua. Va bene, non sono a Sassari, sono fuori, sono località, coso, Fiume Santo, cambio. A voglia, qua sei col camper a Fiume Santo. Di positivo, frate, tutto il mio controllo qua. No, stavo provando questa PCL 800, se stava andando. E la moglie che va, ma ieri tu che stavi fischiando poco fa, o no? No, negativo, tu, no, niente, non ero io. Gappa gappa, tanto l'altro 747, babbo. Ma questo bravo lo gubbio, basta. Cazzo, ne ho già dato due. Oh, me lo posso ottenere questo? Che cosa è successo? Come cosa è successo? Ah, lineare? Eia, ne ho già dato due di 747. Ah, ma basta, chi ce me lo tengo io? Oh no, a nessuno non lo do. Guarda, io ho il genere del tuo. Il 767, uguale identico. Appagappa, vediamo se c'è differenza. Da così... Ah, così c'è la differenza? Ma per il positivo, da 9 passi a 9 e 10. Allora già anda, vai. Gappa gappa. No, capo, che ce me lo tengo. Lo ricordi che uno che l'avevo venduto a te. Non lo ricordo, questo non lo ha nessuno, che ce me lo tengo io. Boh. Io lineare maggio 3 per la macchina, va giù un 150, poi c'ho il 767 e più ne ho un altro pure, capito? Poi ne ho uno da 1200 watt. E io sono un'altra cosa, quella è un'altra situazione, pagappa. Ma questo il 747 me lo tengo perché ne ho già dato due. E il terzo non ne voglio più vendere, ma lo tengo io. Ma ce la faccio, che vanno bene, capo Guido, cazzo, mamma mia. E quello lì lo uso qualche volta l'altro, l'ho usato ieri un pochino. L'ho usato, capito? Ma vabbè, altro non vende nulla, l'ha trovato qua a vendere, a parte non lo trovi più in commercio quella mia rete, non c'è più. Gappa gappa, e poi vanno bene e vanno, ma qua è freddissimo. Da quando è che sto modulando ed è freddissimo, eh? Questa roba. Io sto usando il B150 adesso, attaccato, capito? E a voi va bene. Ma adesso lo stacco. Guarda, adesso è attaccato. Poco a poco ti sento, eh. Ah, vai attaccato, guarda un po'. E a voi va bene. Una bombetta, poi l'ho adeguata a questa radietta che c'ho qua, capito? L'ho abbassato il watt alla radio e l'ho pilotato con lineare. Alla grande, fra. L'antenna adesso sto usando una magnetica, una PCL 800, capito? Se l'avevo ancora tarare stazionaria, penso che non è, però non c'era quel rosso dai trugi. Me l'ho dimenticato su a casa e adesso un altro momento me la regolo. Cazzo, ma essere la più messando sia alla grande. Cava cava, va bene, no? Cava se va bene. Qua era capocaccia. Oggi a piccare è andato. Provare a calamare, ma non venne. Mi sentivo ieri sera a capocaccia. Ma vai. Ma fa tu. Cattano. sentito da Cristian dal coso, dalla veloce della macchina. Pensa al Duca, che ti arrivo lontano. Allora, per te mi allontano un attimo. Ehi, ok, dai, ci sentiamo. Tanto, saluto a casa la tua compagna da parte nostra, ok, dai. Se la riesco da più tardi, sei qui vicino, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ci sentiamo, ciao, ciao. Attento, Antonio, attento. Avanti chi chiama Antonio? Ciao Antonio, Franco, sono il tuo programma, un altro apparecchio, dove ti arrivo? Chi sei tu, Claudio? Franco, California, dove ti arrivo? C'è un po' basso il segnale, tu mi senti? Io ti sento, sono basso. Ma stai arrivando 4, stai arrivando. Attacca qualche cosa perché sennò è un casino. Antonio, attento, Antonio, attento. Gappa, Franco! Antonio, sì. Così, pio, ti sento proprio. Antonio, mi senti adesso? Antonio, attento, Antonio. Mi copi, sono Andrea. Ciao Andrea, buonasera. Ciao, buonasera, come mi copi? Posso smettersi 9:30. Scappa, mi ricordi il tuo nome, scusa, mi sono entrato da poco. E Antonio sono. Sì, ciao Antonio, buon pomeriggio. Scappa, buon pomeriggio anche a te. Sto provando un nuovo alimentatore e l'antenna ce l'ho dentro la camera attaccata all'alimentatore. Ma dove ti vai, cazzo? Arriva con lo scala ai nobbi. Cavolo, vuol dire che è potente, è anche un po' stazionaria, dai. Scappa, ma sei sicuro non ha l'antenna sul tetto? Ma sicurissimo, ce l'ho dentro la camera, la magnetica attaccata allo chassis dell'alimentatore, proprio una prova volante. Scappa, ma siccome la mettiamo fuori che rende meglio. Scappa, mi sto procurando una boomerang, adesso mi attrezzo seriamente. Scappa, scappa. Allora la prendi qua a Sassari o ce l'hai, qualcuno ce l'ha? Guarda, sto convincendo mio fratello a collegarsi da Tissi e forse ne ho una lui di una ventina di anni fa. Gappa gappa. Sì, già va bene. Adesso vediamo. Gappa gappa. Meglio che si riprenda questa 27, che ci sia sempre più gente. Sì, anch'io la penso come te, almeno si crea un po' di comunità, ci si fa compagnia la sera, insomma, si parla di cose che sono la passione comune alla fine. Gappa gappa, so con l'MB più 4 è l'87. Gappa, tu a me arrivi fondo scala, no, forse c'è un po' più di stazionaria, adesso vediamo là, magari un po' meglio intorno sul canale 20 e vedo un po' se migliora un po'. Gappa gappa, chi è che vuole entrare? Avanti! Andiamo, catta! E bello! Bene, arrivo! Via, di lusso! Chi è quello che sta parlando? Andrea mi va, così. Capo, sono Andrea. Ciao Luca. Ma oggi lo sento basso, qua arrivava un bel forte ieri, bu. Che c'ha l'antenna dentro casa, guarda ma c'è differenza. Da così. Sì, mi fai 9:20, arrivi in mezzo, tra il più e il 3. Già, va bene. Ma siamo vicini, non puoi fare la prova al momento. Siamo troppo vicini. Comunque, allora, allora ti dico che Claudio da Muro siamo arrivati a tipo 5 più o meno, e quando, da quando ho sistemato l'antenna mi arriva quasi 9, invece Giovanni Platamano non lo sentivo per niente, mi arriva a 3 a casa. Allora già va bene, ma lei ce l'ha fatta in più, no? Ma tu, era prima 1,5 metri, il palo quello che va a agganciare l'antenna, e questo come sai sono 2 metri, e fa che sia, cosa adesso, fai 30-40 centimetri più alta. Già lo credo, via. Ma la radio più forte me la fa con 747? È più compressa, era. Un po' più compressa. Così ne sto volendo troppo. Vuoi vedere adesso? Prova? 1,3 prova. E tu, lì siamo, e si è cambiato niente. Di più non scendo, se no è un casino. Comunque va bene, dai. Già non credo che andrà bene. Scappa, riprendi Andrea. Scappa, e anche ti sento un po' lontano, ma è colpa mia per l'antenna. Bianco, 2 secondi che prova a mettere l'antenna fuori, un secondo. Ehi, già, se avete l'antenna fuori già, già va. Lui, ti stavo dicendo, che già va bene, va. Scappa, questo, adesso, quello che si scalda, freddo freddo, Scappa, scappa. Positivo che farò oggi, frate, che bello. Uia, e poi la capepano non ti la messo. Ma che sono da fuori, c'è? Cosa, Antu? Entra questo qua sotto, da fuori, bro. Non ho capito, Antu. Non lo senti questo qua sotto? Ma anche no. Basso, basso, basso, basso, lo sento io. No, lo sento. E vabbè, Antu, io con l'antenna, non è che posso pretendere. Lo so, se è stata nata la gabbicciuria è stato diverso. Lo so, vabbè. Già va bene così, dai. Gappa, gappa. E cazzi, nuda, nuda, nuda, nuda, e cazzi. Anch'io ne ho uno che me lo sto, adesso vediamo, ora me lo sto per comprare. Vanno bene queste amplifiche, invece attendi chi su Bacchiderma, che mamma mia. Sta facendo questo e funziona più bene. Stazionale come si è messo? C'è un rosmetro un po' che ne da fatti giù, ma sicuramente sarà 1,1, 1,2. Ma non so come si fa il collegamento però, boh, ma lo so. Il collegamento dall'amplificatore al rosmetro. Ola, ola, va qui e gioca. Ma no, comunque già, quando uno non va a stazionare e questo non scalda, aspetta un attimo che mi passo questa cazzo di felpa che mi sta facendo male alla barba. Mamma mia, come sto. Bisogna che mi compareggia un rosmetro come ti Dio comanda, che quello là secondo me si è andato un po' a quel paese, già c'ho quello piccolino, l'ho provato e non era così. Un altro vizio si sta andando la mara. Certo. Gabbo, aspetta un attimino, mi sono preso la bustina. Se parla di Gabbo, sì. Sai perché, tu lo spiego io. Quando ero dentro in campagna, stavo bene, ero sdraiato, tutto quanto. Sono uscito fuori senza cuffietta, no? L'aria gelida, per la cervicale me lo fa venire, capito? Ci soffro già di mio, Cosa vuoi ti dica, Anto? Ci soffro. Kappa. Bene, mi copia Antonio. Kappa e ti copio. Antenai sei fuori, come va? Ma anche meglio di radio, Kappa, ma Luca è uscito, c'è ancora? Aspetta, sono al telefono. Kappa. Dimmi. Radio di Uri. Perché c'era Andrea, c'era. Andrea, chi è questo Andrea? Andrea si è perso. Kappa, ti ho detto un attimino che era al telefono. Avanti Andrea, ci sei? Sì, ci sono. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Kappa, Claudio c'è. Che Andrea? Non ci ho mai parlato io con Andrea, buonasera. Ciao, buonasera, sono appena entrato da 2 giorni, sono nuovo. Cioè, vecchio, ma sono entrato da poco. Vecchio? Vecchio sono io, non tu. Io sono vecchio. Vecchio di frequenza, vecchio anche di età. non ti ho mai sentito, com'era il tuo nominativo prima? No, in realtà magari conoscevi più mio fratello, modulavamo insieme quando abitavo ancora dai miei. Sguscio, te lo ricordi? Scusa che mi hanno distratto. C'avevo un'altra radio accesa, non ho capito Andrea, come si chiamava tuo fratello? Sguscio, te lo ricordi, Sguscio? Sguscio? Boh, non so, io sono entrato nel 1974, quindi non mi attivi, c'erano tanti, qualcuno mi sfugge, la memoria non è più come quella di prima. Comunque buonasera Claudio Sparviero, un nome, una garanzia da sempre, da 40 anni. E allora, Antonio Bommolo, che si dice? Un po' di tempo che non batti con la queste parti, sto a posto, sì? Capo, sto a posto, sì. Oggi mi ha fatto un regalo, babbo. Mi ha regalato 747, lo sto facendo andare. E dove l'hai attaccato? Qua, all'87. Viaggia bene, 9.20, radio 5, sì. Capami, guarda. Ora lo mettere a prova. E mi ha fatto un bel regalo, era nuovo dentro la busta, in magazzino, era fermo un minimo blu, forse 5 anni. Sono belle cosettine quelle, non c'è problema, vanno bene, vanno benissimo, c'ho anche io uno, però non lo tengo di scorta, non so mai, anche se ne ho altri amplificatori, però quello va bene, sempre piccolino. Non ingombra e fa il suo lavoro. Da che zona moduli, Andrea? Sassari, zona via Mendola Bassa. Mi ricordo però il tuo nominativo, Sparviero, mi ricordo. Beh, 40 anni che uso il tuo nominativo, è chiaro che ti ricordo. Vabbè, io do un colpo qui, un colpo da altre parti, perché sono anche radioamatore, quindi mi sposto a volte. Adesso sono un po' di tempo che non parlo qua, un po' di tempo, ho sentito Antonio, sono andato così a salutare, niente di che. Via Mendola Bassa, io sono a 400 metri di altezza, io trasmetto la Serra Secca Alta, zona diciamo tra Filigheddo e la circonvallazione Perugino. Va bene. L'altro che era quel poco Mane di Luca. Eia, è andato a fare non mi ricordo cosa. Va bene, per il resto, gente ne sta entrando qua, state trasmettendo, com'è la situazione tu? Ah, piano piano già stiamo andando piano piano, no? Però già stiamo andando, va. Vabbè, importante che ci sia sempre qualcuno a fare due chiacchiere. Noto spesso che il dialogo ce n'è poco, comunque. L'importante ci sia gente per chiacchierare, dai. Va bene, salutami a Luca quando rientra, Antonio, che mi sposto da altre parti. Saluto anche Andrea, ben ascoltato per la prima volta e ci sentiremo presto. Riprendi tu Andrea, ciao Anto, buona fine serata a tutti, ciao. Ciao, ci vediamo, cavolo, sono contento, Accidenti a me che me ne ha venduto due. E mai che se non si docca, questo rimane a casa. Ciao. Ciao Anto, lasciatelo, funziona bene, no? La modulazione è buona, il segnale va da 9.10 a 9.20, ottimo, ti aiuta e lo lasci collegato su una radio, capito? Non stai stacca e attacca, stacchi solo l'antenna e te la sposti dove te la devi spostare. Va bene, Andrea, a te il cambio, buona serata a tutti, Claudio Sparviero, UQRT, ciao. Buona Claudio Sparviero, alla prossima. Ciao, ci sentiamo qua. Ciao, vivi bene Andrea qua a casa, S9, Radio 5. Magnetica sulla ringhiera, adesso mi metto una boomerang e vediamo se miglioriamo un po'. Vivi molto bene, evidentemente si è aperto per la mia zona, io sono aperto per la tua, comunque S9. Per quell'antenna che stai usando è ottimo segnale. Ciao, complimenti e buona QSO. Ciao. Grazie. Capo, guarda, è com'è, cavolo. qua sei vicino a me, io, con l'altro io ti sento 9.40, sei fortissimo, sì. Perché evidentemente sei molto favorevole a me. Capa, sì, probabilmente siamo in linea proprio diretti e poi, vabbè, ti ripeto, l'antenna è quella che è, vediamo di migliorare un po'. Tanto non è favorevole a te, no? Siete attaccati, da te a via Mendola ci saranno 150 metri. Sì, da Ugrido, via. È lì, poi c'è nella parte bassa, è ancora meglio. Infatti nella parte bassa incrocia con la tua zona, il problema è arrivare qua che è molto lontano, è molto distante da me, un bel po' di chilometri, e quindi le faccio i complimenti perché sta andando molto bene, se no qua non è che arrivano tutti, arriva Luca del Monte da casa della ragazza S9, ma è molto più vicino, quindi lui essendo più lontano, un S9 con l'antenna così funziona molto bene. Ok, di nuovo Andrea, a te il cambio, vi saluto, ciao. Ciao Paolo. Salviero, buona serata e grazie. Avanti gli altri amici. Ciao, ma chi è l'altro che ha detto ciao Claudio? Avanti. Ciao Antonio, ciao Claudio, ciao Antonio, Franco da Sosso. Cappa, salutore Franco. Cappa, avete parlato in due, ho capito. Forse ti ha salutato Claudio, avanti Cappa. Ho detto ciao Franco, buona serata, ciao. Ciao Claudio, ti chiamo. Niente, allora tu. E allora mi sono in compagnia di Andrea, io. Andrea, forse non lo sento, non lo so, dai, non ho sentito neanche parlare. Cappa, avanti Andrea, non senti a Franco da Sorso. Cappa, Franco, ti sento, non so se tu senti me, dammi un feedback se mi senti. Cappa, io ti sento, sei basso, sei un segnale di 4 e una radio di 2. Però un po' comprensibile, dai. Cappa, tu invece mi arrivi 7 e una radio di 3, però io c'ho un antennino, Cappa, che tiro fuori. Bene. Allora tu. Allora, e come ti arrivo in su? Bene. Sto utilizzando la 87747 che mi ha regalato il babbo. Già va bene, 7.5 che segnale, 7.5 radio 5. Cappa, già va bene. E a voi tu, va benissimo. Guarda, io dovresti arrivare a bomba a quelli di vicino. Cappa, a voi arriva a bomba. Ehi Cappa, invece l'altro amico lo stiamo usando, sempre la Sassari. Qua vicino a me in via via Mendola bassa. Cappa, allora per quello mi arriva bassa, via Mendola bassa, la sorso è un po' negativa. Avanti Andrea. Cappa Franco, tu invece mi arrivi benissimo, ti sento chiarissimo, la radio ottima, e io però c'ho un'antennina magnetica sul poggiolo, non ho molte pretese, adesso vedo di mettermi una boomerang e di migliorare un po' il segnale. Guarda, per le condizioni che stai lavorando, ti dico che stai arrivando anche troppo bene, stai arrivando qua sotto, che se seguono una magnetica, guarda, va bene, perché a quanto pare ce l'hai anche nel fagiolo e vuol dire che sta andando bene. Cappa, grazie. Cappa, ma hai visto tu, con il tendino, la niente, e arriva anche qua. Ma lui mi sa che è al settimo piano, anche. Vabbè, settimo piano, però con una base magnetica non è facile arrivare qua. Diciamo, ci mette l'antenna lì, un'antenna, anche una di quelle piccole che costano poco, lì arriva bene qua. Sì, magari basterebbe una boomerang a risolvere tutti i problemi. Ma presto che prende una boomerang, si prende un'antenna, una verticale di quelle da 50-60 euro, tanto costa così la boomerang, a meno che se non gliela regalano, se no Caspita, c'è davvero che costa intorno ai 65-70, non è... E la boomer alla fine la paghi la stessa cosa e prendi con 70 euro prendi una 5 ottavi. Scappa, io il problema del tetto in realtà che forse non posso raggiungere, adesso vedo un pochettino com'è. Vabbè, se c'è possibilità di metterla sul tetto ti conviene una vero, una di quelle una 5 ottavi e ce la metti sul tetto. Perché intanto se vai a comprare una boomerang non ti fa la stessa resa, non ti dà la stessa resa di quella lì e la paghi lo stesso. Kappa, ma anche Antonio mi ha consigliato una Venom ieri. Kappa, chi è questo spaventato che vuole entrare? Avanti. Ciao. Sì, un segnale di 7, da 7 a 8 a 9 scillante va, è in macchina sì, Antonio. Eia, dimmi, dimmi fra. No, scusa Antonio se mi sono sbagliato. Franco, sì che ti ascolto, come mi senti? Fra, Franco, a me non mi ascolta tu. Oh, attento Franco, è vero, ti tengo bacio. Franco, California, è strano. Non mi sento. Kappa, non lo percepisco nemmeno io. Ormai va bene, sono da 7 a 9, con QCB a 9, ma probabilmente vado in macchina. Sicuramente. Ma dove c'hai? Prendi un susso, c'hai proprio. Cara, diciamo che quasi nella periferia, vai. Kappa, ma lo conosci Dario, visto chi canta? Dario, visto chi canta? Ehi, da faeta. Antonio, non mi ascolti adesso. Antonio non ti ascolta. Kappa, ti ascolto basso, ti ascolto. Oppure, allora come si? Sono stato da parte mia. Stai arrivando bene, adesso sei 8:30, vai. Antonio dice che riesce a sentirti, però basso. Ok, a tu. A dimmi. È il più messaggio, ma basso la scusa. È molto basso, se non attacca qua, ui. Non riesce a cavarli bene, non riesco a toglierlo da fuori. Ma lo so, ma lui mi sente a me. Penso di sì, un attimino si è allontanato. Penso che ti ascolti. No, a me ne arriva quasi 9. No, io no. Lo sentivo basso. Un poco fa quando ha fatto un passaggio orologio lo sentivo io. Sono andato a pescare di nuovo. Ah, portare i picchendi, Beh, se ti piace. Sicuramente sono in chimico un camper. Kappa. Vera. Andrea. Attento Antonio, bombolo, mi ascolti adesso, cambio. Ora sì. Quando ti sto arrivando a Sierra Sierra? C'è Santiago 5 Radio 5. Kappa, l'altro amico non ho cambiato che era, di Sorso, come mi ascolti? Franco è. Sono io, ci sono lì qua a Sorso, sono io. Quasi 9:05 adesso, è Radio Super 5. Ok, dai, Kappa, no, stavo, c'era quel PL attaccato dell'amplificatore, non me ne ero accorto. Comunque mi ascoltate bene. E la voglia. Attenzione, Franco California, vita mia, che bevrete. Cavano Carriere, mi ascolti anche tu, cara. Ehi, qua, latte dolce, sono. Ciao, Franco. Sono qua, dai. Chiappa Roggio, se ci sei più tardi, Franco, da Sorso, se ci sarà, io arriverò alle 8:30 a casa. Ho sistemato l'antenna per vedere, comunque, qualcosa è cambiato. Ho più ricezione, lo sai. Adesso vediamo, ma quella di casa tua proprio, quella di... Vabbè, casa tua, là. No, è stata tutta ripristinata, pulita, praticamente è tornata nuova, sembra la città del negozio, va. Poco ci manca. E poi sono levata di... prima era 1,5 metri, aspetta, 1,5 metri, ci sono due... c'è la base di 2 metri, 3,5 metri era prima circa, 3 metri... e lì, dai, 3 metri, adesso è quasi 4 metri alta. Attento, Luca, mi ascolti meglio adesso? Comunque si è migliorato per quanto riguarda la ricezione. Ah, Panluca, a me ti sta chiamando Franco. Sì, a Franco. Guarda, se mi ascolti adesso, mi sono spostato un po'. Sì, segnale 3 arrivi qua, dove sei? Io mi sento da parte di via, dai, però sono nella spiaggia, ando una moto bassa. Infatti pensavo che non mi ascoltavate. Tanto Franco, ti ascolto, discretamente, dai, lo sai che io ho l'antenna in terrazzo qua. Purtroppo la ricezione è quella che è. Va bene, ti ascolto benissimo, allora non c'è problema, avanti, avanti Franco. Ehi K, vabbè, a me arriva bene perché in pratica non vedo, vai, da qua, da dove sono la posizione dove sono io, vedo tutto a quella parte, e vedo. Ho visto la tua antenna come condizioni era, come era, infatti quando l'ho visto ho detto un po' bassa mi sembra, però, perché c'è molti palazzi davanti, Per il momento la lascio così, però devono farmi le staffe nuove, me le fa un amico, dai. Prendo il materiale, bisogna che venga lui, mi prenda le misure, così so quello che devo comprare e cambio le staffe, così la metto come videocomando, dai. La piazza bene, così sono sicuro che con il tempo dura, ecco tutto qua. Sì, era messa male con l'antenna, fra, molto, molto. Cioè tu pensa dove l'ingresso dove inserisci il palo lì, sarà scoppiata praticamente, era spaccata, era, poi c'era anche Antonio, tu non l'ha vista, e mi ha fatto tutto quel pezzo nuovo anche, tutta la, è tornata nuova, nuova al negozio, veramente bella, bella bella. Una volta che la pulisci la fai bene, tranquillo, anche io la vedo da poco, questa stata l'ho tolta perché come l'antenna mia è controcircuitata e poi si è quel cavetto, quel pezzo di filo si era attaccato all'interno e allora ho dovuto tutto smontare, risaldare tutto quello, ripiazzarla, sono tutta lucidata, l'ho fatta nuova, nuova, nuova, e poi ce l'ho ristallata, e adesso è una bomba di nuovo. No, la mia proprio è... No, penso che duri altri 20 anni, e forse non so se muoio prima io o muore con l'antenna. L'ho fatta tutta nuovo, poi è stato coperto, ho visto che c'era tutto l'avvolgimento lì, tutta coperta, non è all'aria niente, no, è perfetta. L'unica cosa che devo fare è sicuramente portare su poco poco la spirale, perché ho stazionaria nel canale 40, ce l'ho a 1,5. Allora, Brecco. Sì, avanti Brecco, non me ne ero, come hai schiacciato, via. 9,20, ora sei lattino. Ciao Franco, no, sto usando un Intec 34 canali, volevo sapere com'è radio, se è possibile. Buonasera a tutti. Ciao Tino, la radio è un po' pressata, diciamo, un po' saturina. Infatti ho detto, e chi c'è qua vicino a me? Non è schiacciato proprio, a Luca l'hai proprio annientato. Aspetta, non sono accorto, va così i suoi 4 watt naturali, ecco, vedi un pochino, guarda qua. Adesso sei 9,5 e radio 5, perfetta. Va bene come radio? Per me va. Poco fa hai risato, vabbè, è agganciato, c'è il 9,20. Sì. Luca, a te come va? Ciao T, quasi segnale 9, prima di 9,20 e oltre, dai. No, vabbè, la radio mi interessa, non mi ero accorto che ero, pensavo che era in stand by, che invece no, perché ce l'ho attaccato per un'altra radio. La radio mi interessa, se è normale, perché tanti anni buttato da una parte questo qua, e insomma me l'hanno regalato, volevo provarlo. No, va benissimo, ti la radio 5, va bene, dai, avanti, che io voglio entrare? Una bomba, Etti, una bomba. No, io sono Antonio K, che sono passato con quello grande, dai. Ora. Bianco un attimo, Va bene, ciao Antonio, ciao. No, è giusto, va bene, fra, microfono normale, un Intec 34 canali, quello piccolino, quello, insomma. Niente di che, un baracchinetto per mettere in una BM, diciamo. Ehi capo, no, va bene, anche se è il microfono originale, va bene la modulazione, è bella. Anzi, cioè, non me lo dicevi, pensavo che stavo usando un amplificato. Ah, addirittura. Ah no, va bene, gli lascio questo qua, dai. Così è Luca. Kappa, no, sei una bomba, sì. Tranquillo al 100%. Chi è? Kappa, Kappa. Va bene, dai. Con questa è un'altra storia. Va bene, questa è un'altra radio anche. Questa è ancora molto migliore, quindi adesso c'è quasi 9:20, però la radio è sempre bella, è bellissima. Kappa, scommetto che questa è molto migliore di radio, vero Franco? Quale? Quella di Tino? No, quella che sto utilizzando io adesso. Veramente, Antonio, non ti offendere, però mi piace più quella di Tino. No, vabbè, quella è un'altra storia. Ho detto a confronto al baracchino che stavo utilizzando poco fa. Ma adesso sto utilizzando un baracchino piccolino stesso, questo è un HR 5005. Cioè. Tu ce l'hai bella anche tu, non è brutta, la tua, vabbè, non ti conosco di persona, non so come la tua voce verticale, però è bellissima la modulazione lo stesso, perché è bella, bella chiara. Però c'è un altro tipo di timbrica, diverso, tutto diverso. Prima era col baracchino, vero? Kappa. Anche Tino è con un baracchino piccolo adesso. Abbassi Tino. Bene, questa è un'altra ancora, quindi la differenza c'è, dai. A voglia che c'è la differenza. Che sì, da uno all'altro. Vabbè, Fra, cosa vuoi fare? Non può avere, tutti e tre non possono avere la stessa modulazione. Infatti. Un attimino che mi stanno chiamando. Riprendi tu. Kappa, Kappa. Ma c'è anche Andrea, c'è. Avanti Andrea. Kappa, buonasera a tutti, anche ai nuovi che non conosco. Mi sto copiando. Ho copiato anche Franco, anche se piccolino poco fa. Tino c'è. Ciao Andrea, non so dove sta modulando, comunque già stai arrivando bene. Kappa, anche tu Tino, io sono zona via Mendola Bassa, Sassari. Kappa, io diciamo discesa per Platamona. Kappa. Ma sei nuovo? Sì, rientrato dopo un po' di anni, ma ho ritrovato una bella comunità, complimenti. Andrea, facevi di nome, diciamo, Andrea? Kappa, in realtà modulavo più che altro con mio fratello perché abitavamo dai miei e lui era sguscio, non so se te lo ricordi. No, io la verità sono dal lontano 89, che sono a radio, quindi. Kappa, no, io giusto ascolto, qualche volta facevo, ma sto parlando di tanti anni fa. Un po' ne ho già si ricorda tutti. Ma quello si sta gonfiando, mi sa che sta scendendo sulla mosca addosso anche. Cosa è successo? Antonio. Un attimo. Tino, ci sentiamo, dai, mi è arrivato gente. Ciao Antonio, ciao Tino e ciao anche a Andrea. Ci ascoltiamo le prossime. Ciao anche a Franco California. Riprenditi. Vabbè, ciao Fra, ciao. Ci ascolta, un abbraccio, saluto in casa, ciao. Vai Antonio. Kappa, ciao. Ciao Franco, ci risentiamo alle prossime. Avanti Andrea. Ciao Franco, alla prossima, ciao. Kappa, Kappa. Uia. E quindi, mi sono messo qua, mi è più comodo con questo grande, ecco, non devo stare sempre il bugiardo, devo stare modulato, con questo va molto meglio, va, dai. Ma non c'è anche Luca? Non lo so, Luca ci sei? Cazzo, tu mancanti il tuo gozo. E davanti che appena va giù di là ricudare un muro, il tuo rosmetro. Sta funzionando quasi. Beh, è stazionare in una via, cazzo, mi sta fatta andare a Gubisuria per vedere il PL, le cose, e da buira che tammara. E questa maledizione di rosmetro che sicuramente si è starato. Scusate, dai, anche io mi devo allontanare dalla radio che arriva la gente e devo salutare, dai, sentiamo dopo. Riprendiamo, dai, fai girare e poi ci sentiamo. Ciao a tutti. Ciao, ti ci sentiamo. Avanti Andrea, per saluti. Ciao, ciao, alla prossima, ciao. Cappa, cappa. Ma dimmi tu, mi sta fatta stare andata la gubicciuria, invece c'è un rosmetro che non funziona assai. Ma che rosmetro hai? Quelli esterni o dentro l'apparecchio? No, no, quello è dettaggio esterno. Cappa, e che problemi ti sta dando? Ah, mi dava stazionarie 5, mi dava. Invece sono andato a misurarlo con l'altro, non era così. Cappa, allora magari sei un po' starato. Ma com'è? A lancette, vero? Cappa, così sono a lancette. Aspetta un attimo, Bianco che mi sta chiamando la mia compagna. Cappa.